Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. A Salvini piace sempre parlare di calcio, proprio come un allenatore di calcio di una squadra che ha vinto 15 scudetti. Se a inizio anno dichiara vinco scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Italia e alla fine porta a casa solamente il minimo sindacale, cioè la Coppa Italia, fa una brutta fine. Date i voti in percentuale, ma non su chi ha votato, sugli aventi diritto. Vedrete che le loro percentuali come minimo dimezzeranno. Hai lasciato tutto in sospeso, hai detto che Zingaretti dice che sono il primo partito, Salvini dice che è il primo partito, dai un po' le percentuali e di chi è il primo partito in Italia, per piacere. Chiarisci alla gente che magari non lo sa. Amico caro, non si sa chi è il primo partito, cioè queste sono elezioni regionali, è tutto troppo vago, capisci? Se la lista Zaia fa il 45%, quelli che cosa sono? Sono voti della Lega, come dice la Lega, o sono voti di Zaia, come dicono gli altri? Là dove la Lega ha fatto il 15% con la sua lista in Veneto. Là dove la lista di De Luca prende, adesso non lo so, un 20, un 30%, sono voti del PD quelli oppure no? E quindi hanno tutti ragione e non ha ragione nessuno in realtà. Cioè sono solamente le elezioni politiche e le elezioni europee ormai che ci possono dire effettivamente chi è il primo partito e chi è il secondo partito. E quindi tutti hanno le loro ragioni, se volete, a intestarsi la vittoria. Non so, non mi convincono mai, lo dico all'ascoltatore, i paragoni con altri mondi, i paragoni della politica con altri mondi. Certo che Salvini le aspettative le ha create, non c'è dubbio. Infine, i voti si contano quelli delle persone che vanno ad esprimere il loro voto, non si contano gli astenuti, non si conta quanti voti in assoluto sono rispetto a quanti erano gli aventi diritto, perché si conta su chi decide di esprimere il proprio voto, su chi decide di fare il suo dovere civico di andare a votare. Non si fa diversamente, eh? Sono le 7:22 minuti, è mercoledì 23 settembre, la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia e voi, se volete, con il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. La parte è dedicata alla rassegna stampa, come ben sapete, questa con molti titoli dedicati alla politica, naturalmente, con un Corriere della Sera piuttosto morbido che parla di un governo nel quale il PD chiede il rilancio, e altri giornali invece che si dedicano, o la stampa che parla di un Presidente del Consiglio Conte che sposta il governo a sinistra, e altri giornali invece che si concentrano su quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle. Prendete La Repubblica, Movimento 5 Stelle, la resa dei conti. Conte si piega al PD e i grillini esplodono, è il titolo del giornale invece. Il Manifesto, con un gioco di parole, stelle a strisce, La Verità si dedica a altro, l'Europa che dà subito gli ordini al governo, noi decidiamo, voi mettete i soldi. Libero che prosegue la battaglia inaugurata ieri, se siete coerenti tagliate subito, ossia non si può aspettare il 2023 per dare seguito alla volontà degli elettori sul taglio dei parlamentari. Il Fatto Quotidiano che sostiene che l'alleanza 5 Stelle PD l'han fatta agli elettori con il voto. Il Messaggero che racconta di un piano che metterebbe d'accordo Movimento 5 Stelle PD. Via dalla Raggi, Zingaretti vice premier e candidato e l'arrivo di un candidato condiviso per Roma. Avvenire, mai senza cure. Il titolo è sulla Congregazione per la Dottrina della Fede che decide, che stabilisce che la morte non è un diritto. No al suicidio assistito, un crimine l'eutanasia, i sacramenti sono incompatibili con tutto questo. Il Sole 24 Ore sull'Europa, aiuti del recovery nella manovra, è la lettera ai ministri delle finanze europei firmata dal vicepresidente della Commissione Dombrovskis e dal commissario all'economia Gentiloni. E poi a centro pagina un titolo politico: il governo Conte esclude il rimpasto al lavoro sul rilancio. E infine la Gazzetta dello Sport sulla vicenda Suarez. Suarez, te lo do io l'italiano, è il titolo della Gazzetta. E sapete che facciamo oggi? Vabbè, partiamo proprio da qua, va, partiamo proprio dalla vicenda di Suarez, Luis Suarez. Di cosa aveva bisogno Suarez? Aveva bisogno di un passaporto italiano, aveva bisogno di una cittadinanza europea per potersi muovere liberamente nel continente. E che cosa ha fatto? Con l'ipotesi di andare alla Juve, ha sfruttato tutto questo, lo avete sentito anche in GR24, ha sfruttato il fatto di avere una moglie oriunda italiana che grazie al nonno friulano ha il passaporto italiano. Per costoro, per persone come Suarez, che quindi sono sposate a una persona che ha passaporto italiano, è prevista una procedura accelerata. Basta un esame di italiano. Questo esame di italiano come è andato? Da quel che raccontano le intercettazioni della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Perugia, è stato semplificato, per così dire. Non parla l'italiano, ma deve passare l'esame. È il titolo della Repubblica. Si indaga per corruzione. Il pezzo è di Fabio Tonacci. Il ragazzo comprendeva sempre e non aveva problemi di ascolto. Immagino che avesse seguito dei corsi accelerati di lingua italiana. Italiano e spagnolo non sono lingue così distanti. L'esame è durato 12 minuti. A riascoltare oggi l'intervista rilasciata alla Radio Nazionale Spagnola da Lorenzo Rocca, uno dei membri della commissione che ha promosso il candidato Luis Alberto Suarez Díaz, alias El Pistolero, alias il sogno proibito della Juventus di Pirlo che lo voleva accanto a Ronaldo, la sensazione di trovarsi al cospetto di una colossale presa in giro. L'esame tenutosi all'Università per Stranieri di Perugia il 17 settembre scorso è stato, secondo i magistrati, un'autentica farsa. E qua giocano le intercettazioni. Ma te pare che lo bocciamo? Non coniuga i verbi, parla all'infinito. Il tenore è questo. Sono accusati la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, Lorenzo Rocca, la preparatrice didattica. La Juventus, per stessa missione degli inquirenti, al momento non è coinvolta, ma la faccenda è complicata e scivolosa. L'inchiesta è agli inizi e dall'analisi dei supporti informatici potrebbero venire delle sorprese. A chi si chiede come mai in una situazione così rapida, no, come l'ipotesi di arrivo di Suarez in Italia, ci siano già delle intercettazioni, mi pare evidente, c'era già un'inchiesta in corso e lo racconta la Repubblica, non su Suarez evidentemente, con Paolo Brera sempre in questa pagina. Buchi in bilancio e fuga di studenti, l'Ateneo era già nel mirino da gennaio. Quindi la procura, adesso guidata da Raffaele Cantone, stava già lavorando. Nel suo pezzo Fabio Tonacci dice: manca un tassello. Com'è che un intero Ateneo si mette a disposizione di Suarez? Nel fascicolo di indagine uno dei dirigenti scolastici risulta indagato per corruzione. Se c'è un corrotto ci deve essere anche un corruttore, ma finora non sono emersi elementi per dire che qualcuno abbia fatto pressioni sull'università, né che abbia promesso a qualcuno vantaggi e utilità, scrive la Repubblica. E allora andiamo sul Corriere, da Fiorenza Sarzanini, che ci racconta di qual è l'ipotesi di queste utilità. Un accordo con l'Università di Perugia per far sostenere l'esame a tutti i giocatori stranieri che avevano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza italiana. È la promessa fatta dal legale della Juventus ai responsabili dell'Ateneo. Questa è l'ipotesi sulla quale si sta lavorando. Ci sono almeno 3 telefonate tra l'avvocatessa Maria Turco e il direttore generale dell'Università Simone Olivieri che svelano la trattativa per far superare il test italiano appunto a Suarez. L'avvocatessa spiega a Olivieri, racconta Fiorenza Sarzanini, l'intenzione di dirottare sull'Università di Perugia tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno in futuro bisogno di sostenere l'esame di italiano per poter essere tesserati, e così ottiene da Olivieri la certezza che si farà tutto il necessario per risolvere ogni problema legato a Suarez, anche il fatto appunto che parla coi verbi all'infinito. Naturalmente troverete su molte pagine dei giornali il tema del rilancio dello Ius Soli o dello Ius Sanguinis al grido che è questo. Com'è possibile che un uomo che non parla nemmeno italiano, per il solo fatto che c'è l'ipotesi che venga in Italia a guadagnare 10 milioni di euro, possa passare l'esame così tranquillamente. C'è per esempio Avvenire, no, con un commento di Maurizio Ambrosini, e qua riportiamo perché parliamo di Suarez, perché diventa inevitabilmente un elemento anche di dibattito politico e anche di discussione all'interno della maggioranza. Come dicevamo prima, un tema che potrebbe essere divisivo tra le due ali della maggioranza, lo ius soli o lo ius sanguinis, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Uno scandalo forse salutare, titola nell'editoriale Maurizio Ambrosini, che entra proprio su questo tema, no? Discutendo del trattamento degli stranieri quando chiedono di entrare o di insediarsi o di acquisire la cittadinanza di un altro Stato, si dice talvolta che la ricchezza sbianca, ossia i benestanti, quale che sia il colore della loro pelle, sono trattati in maniera assai diversa e migliore degli stranieri poveri, quelli che comunemente chiamiamo immigrati, anzi migranti. Le stesse politiche pubbliche ammettono questo principio. Sono paesi come Malta e Cipro che concedono la cittadinanza senza condizioni agli investitori che arrivano dall'estero dotati di un certo gruzzolo. Applicano lo ius pecunie. Anche di questo forse c'è da discutere. Arriveremo tra un attimo a parlare più propriamente di politica, politica nella quale entra anche questo, entra il tema dei decreti sicurezza e dell'immigrazione, ma lo facciamo dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Salvini ha perso la Toscana, ma con un 40% di percentuale, il che non è poco. Per cui attenzione, perché non è che ha perso con la percentuale dei grillini. Qual è il partito in Italia? Non lo sappiamo, vediamo. Fatti due conti pure tu, ma secondo me il primo partito in Italia, lo sapete benissimo qual è, della Lega, e non è il mio partito. Sul caso Suarez, dire che la Juve non c'entra è come sparare a qualcuno e dire che è stata solo la pistola. Simone, qua tutti che si intestano la, la vittoria, ma qualcuno che si intesta la responsabilità di tutto quel che succede? Mai, eh? Caro mio, che ti devo dire? Che ti devo dire? Che ti devo dire? Oh, sul primo punto, sì, è molto probabile che la Lega sia il primo partito. Guardate, non è che stiamo, non è che qua qualcuno neghi la realtà per qualche motivo, semplicemente che dal punto di vista numerico, praticamente, questa cosa non si può dire al momento. È molto probabile che la Lega in questo momento sia il primo partito in Italia. Altamente probabile. Do un 90% di possibilità che la Lega sia il primo partito in Italia. Però queste cose si misurano alle politiche, alle europee. Misurarlo alle regionali ha senso e non ha senso, vale e non vale. L'andamento elettorale nelle regioni nelle quali si è votato, cioè per esempio, vi dico, visto che ci siamo, visto che siamo su questo tema e poi arriveremo a qualcosa di un po' più... vorrei dire sostanzioso e concreto, a partire dal piano. Oggi è una giornata importante perché la Commissione europea presenta il suo famoso piano migranti, quello del quale Ursula von der Leyen aveva parlato nel discorso sullo Stato dell'Unione, la revisione di Dublino. Ed è un piano che, da quello che circola, stando alle indiscrezioni, è un piano che non darà grandi soddisfazioni all'Italia, sarà qualcosa su cui discutere. E però, visto che siamo sulla politica, con i vostri WhatsApp, solo una cosa, non commento l'ascoltatore anti-juventino, perché non è corretto metterla così. Vedremo se ci saranno responsabilità della Juventus, lo appureranno ovviamente i magistrati. Visto che siamo sulla politica, andiamo proprio su questo. Ci sono le misurazioni, per esempio, dell'Istituto Cattaneo, che trovate su vari giornali. Prendo quella di Repubblica, tanto per fare un esempio, il quale... La quale Repubblica ci dice che in queste regionali 2020 la Lega complessivamente, se si prendono tutte le regioni, si è fermata al 13,1%, che è una percentuale piuttosto bassa. Ma come dicevo prima, questa misurazione deve tener conto o non deve tener conto del risultato di Luca Zaia? È una domanda sospesa, perché Zaia ha preso con la sua lista da solo il 45%. Il risultato del Partito Democratico deve o non deve tener conto della lista di De Luca da solo, che anche là ha preso un pacco di voti? Il risultato di Toti quanto è dovuto alla Lega e quanto è dovuto alla sua lista? Capite che è un po' difficile, no? mettere insieme tutti questi pezzi, soprattutto in un momento come questo, nel quale i governatori, i presidenti di regione sono grandi protagonisti e quindi sono essi stessi delle macchine che attirano dei voti. È tutto molto personalizzato. L'analisi Emanuele Lauria a pagina 8 di Repubblica testimonia comunque una cosa e dice: il crollo dei populisti, in un anno sono svaniti 3,2 milioni di voti. Anche qua non si tiene conto di alcuni elementi, e però i segnali, se in questo mondo populista si comprende anche il Movimento 5 Stelle, ci sono. Si parla di una media per il Movimento 5 Stelle, sempre dati dell'Istituto Cattaneo, del 7,2% nelle regioni nelle quali si è votato, un risultato peggiore di tutti. Qua i dati sono presi dalle politiche del 2013. C'erano una volta i populisti. Le elezioni regionali consegnano al paese il ridimensionamento della Lega e la picchiata senza sosta dei 5 Stelle. I partner del vecchio governo giallo-verde si trovano dentro una crisi certificata dai numeri. Negli ultimi 15 mesi, nei territori nei quali si è votato domenica e lunedì scorsi, i due partiti hanno perso 3,2 milioni di voti. È un calo dalle dimensioni e dall'andamento diverso. I grillini, dopo il boom alle politiche che li ha fatti diventare prima forza in Parlamento, hanno iniziato un'interminabile discesa. Il Carroccio invece aveva accelerato a scapito proprio dei 5 Stelle, fino al picco delle europee 2019 e ai sondaggi del luglio successivo che l'avevano portato a sfiorare il 40%. E poi la crisi di governo, naturalmente, è tutto quello che sapete. Lo trovate nel pezzo di Emanuele Lauria, appunto, a pagina 8 del quotidiano La Repubblica. Flussi di voti che vanno e che vengono, dei quali troviamo analisi un po' dappertutto, e anche qualche dubbio e qualche sospetto che circola tra i presidenti di regione o tra i candidati alla presidenza, soprattutto tra i candidati alla presidenza di regione della Puglia e della Campania. Due candidati di centrodestra che non piacevano a Matteo Salvini, e a dire la verità non lo ha mai nascosto, e che fanno sorgere un sospetto, racconta a pagina 9 del giornale Paolo Bracalini, su quello che è successo a Fitto da una parte in Puglia e a Caldoro dall'altra. Il sospetto non arriva a ipotizzare che Salvini abbia remato contro, ma che non abbia voluto mettere più di tanto la sua faccia sulla corsa dei due candidati della Meloni e di Forza Italia, quello sì. La verità è che Salvini si è sempre rifiutato di farsi vedere insieme a Fitto. È sceso in Puglia molte volte senza mai incontrarlo, solo a pochi giorni dal voto, in cambio della presenza della Meloni a Firenze per la chiusura della Ceccardi, abbiamo ottenuto che lui facesse una cosa insieme a Fitto, spiegano dai vertici di Fratelli d'Italia. C'è anche questo elemento all'interno del centrodestra che potrebbe creare qualche tensione. Ancora sulla politica, cos'altro? Visto che siamo su questi temi, fatemi dare un altro piccolo scampolo che vi pesco dal Foglio, con Salvatore Merlo, il quale ci racconta che fuori dalla facciata di grande amore, per così dire, tra Zaia e Salvini, insomma, il sangue che corre non è buono. Il tripresidente veneto compila la giunta espellendo i salviniani. Racconta per esempio che ieri Zaia nelle riunioni con il suo staff ha lasciato intendere di essere pronto a sacrificare il fedelissimo Roberto Marcato, assessore uscente e campione di preferenze. Perché? Perché se Marcato tornasse a fare l'assessore dovrebbe dimettersi dal consiglio regionale e al suo posto in consiglio entrerebbe il primo dei non eletti, cioè un salviniano che si chiama Giuseppe Pan. Non sia mai. Pussa via, ma la cosa più bella è che forse più di tutte rende in un lampo la differenza che passa tra Zaia e Salvini, cioè tra un uomo politico e una star dei social, è che il presidente del Veneto da ieri fa raccontare a tutti i cronisti d'Italia che è Salvini a non volere Marcato e quindi intestando di fatto a Salvini questa battaglia. È una piccola storia che però vi dà un po' la misura di quello che sta succedendo anche all'interno della Lega. Ci racconta invece Maurizio Belpietro in un ottimo editoriale sulla Verità, in un ottimo pezzo lungo, quello che rappresentano queste elezioni regionali. Gli italiani tornano a chiedere l'autonomia, questa è la lettura che ne dà Belpietro. Il Covid ha resuscitato outsider come De Luca ed Emiliano, mentre Toti e Zaia già godevano dell'apprezzamento dei concittadini. Immaginare un partito dei governatori, dice Belpietro, è un errore. Quello che emerge dalle urne è che le regioni vogliono fare da sé, e forse vogliono fare da sé anche in termini di capitale politico. Ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, sono ancora un po' di cose delle quali vi voglio dar conto e che vi vorrei raccontare. La prima è questa questione della riforma del sistema del diritto d'asilo, sul quale da parte della Commissione Europea, che arriverà oggi, ci sono un po' di anticipazioni a partire da quelle del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che ci riporta anche un pezzo di Nino Amadore che racconta come molte imprese si sentano rifiutare la possibilità in Sicilia di fare un contratto regolare a delle persone. Perché? Perché queste persone prendono il reddito di cittadinanza, preferiscono così e chiedono un lavoro in nero. Traffico. Scusate, mi ero perso per strada. Questa pagina del Messaggero è un aspetto retroscenistico che però dà un po' la misura di quello che potrebbe succedere. Pagina 3, a firma Mario Aiello, il racconto è questo. L'idea è che tra Partito Democratico e 5 Stelle ci sia un piano per non ricandidare la Raggi. È un pezzo dell'accordo che si starebbe stilando. Zingaretti diventerebbe vicepresidente del Consiglio, si andrebbe quindi alle urne anche nella Regione Lazio. La candidata per la Regione Lazio potrebbe essere Roberta Lombardi, appunto dei 5 Stelle, e si troverebbe un nome condiviso da candidare a Roma. Ve la metto là, vedremo che cosa succederà anche su questo fronte. Scrive un ascoltatore sulla vicenda Suarez, dice: ho la compagna che è arrivata in Italia all'età di 5 mesi, sono 40 anni che vive qui, la mamma ha cittadinanza italiana, le figlie nate in Italia, la carta d'identità italiana, e per richiedere la cittadinanza vogliono il certificato di nascita originale tradotto. Ma ragazzi, vi pare normale? No, non ci pare normale, appunto, a fronte del, se vogliamo, del paradosso che vediamo con la vicenda Suarez. E visto che siamo più o meno in tema, veniamo proprio alla questione dell'immigrazione. Oggi l'Europa presenterà il suo piano. Ursula von der Leyen, forse un po' imprudentemente, ha detto che verranno cancellati gli accordi di Dublino, che sono quelli che prevedono che tutte le formalità, e non solo quelle del diritto d'asilo, della richiesta di asilo, vengano espletate nel paese di primo approdo. Dublino non verrà cancellata. Chi sperava, scrive Beda Romano a pagina 21 del Sole 24 Ore, in un assetto radicalmente nuovo che introducesse magari un ricollocamento automatico dei richiedenti l'asilo, rimarrà probabilmente deluso. Troppo controverso, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, che finora hanno rifiutato la redistribuzione obbligatoria delle persone arrivate alle frontiere europee. Nel contempo, Bruxelles vuole poter imporre un nuovo equilibrio tra solidarietà e responsabilità, dando eventualmente l'ultima parola alla Commissione europea. Quale sarebbe la proposta? Riassumiamo sempre dal pezzo di Beda Romano. Un qualsiasi paese membro potrà attivare una richiesta di maggiore solidarietà. Tra le fattispecie: una crisi migratoria, un'emergenza nei salvataggi in mare, qualche forma di difficoltà nel gestire i flussi migratori. Nei tre casi la Commissione europea sarebbe chiamata a valutare la situazione e a coordinare le offerte di solidarietà provenienti dagli altri Paesi membri. Nel caso non si raggiunga il grado di solidarietà sufficiente, che chissà come si misura, il meccanismo ideato dal vicepresidente dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas e dalla commissaria agli affari interni Ylva Johansson prevede un meccanismo di correzione affidato a Bruxelles con un atto di esecuzione sotto il controllo dei Paesi membri e del Parlamento europeo. Sarà difficile farlo comprendere, farlo passare questo, ci si concentra su questo anche Marco Bresolin sulla Stampa. Si tratta, dice, di un significativo emendamento dell'attuale regolamento, però appunto nessuno sarà obbligato in pratica a dare un contributo. Sempre per rimanere su cose un po' concrete, c'è questo bel pezzo di Nino Amadore, così restiamo sul Sole 24 Ore, da Palermo, che è richiamato anche in prima pagina e che ci racconta a pagina 11 cosa succede con le piccole e medie imprese a caccia di lavoratori. Che non li trovano. Non li trovano perché in alcuni casi, ovviamente, non è la maggioranza, preferiscono tenersi il reddito di cittadinanza. C'è il ristoratore che non trova camerieri, c'è l'imprenditore dell'edilizia che invece non riesce a trovare operai, ma la situazione è generalizzata anche in altri settori, manifattura compresa. Spesso riusciamo a trovare la figura giusta, raccontano gli imprenditori, ma quando chiediamo di portare i documenti per regolarizzare il contratto rispondono no, abbiamo il reddito di cittadinanza e non vogliamo perderlo. Se vuole, possiamo lavorare in nero. Una situazione paradossale che in Sicilia si sta materializzando in parecchi settori. Raccolgo sempre più spesso il grido d'aiuto di aziende disposte ad assumere persone con regolari contratti di lavoro e che si trovano di fronte al rifiuto di chi ha il reddito di cittadinanza e preferisce non lavorare, dice Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Confindustria Sicilia e di Sicindustria. Io penso che questa misura, così come è congegnata, non serva a nessuno, né ai lavoratori né alle imprese, e che condizioni pesantemente il mercato del lavoro in una terra come la nostra. E poi il pezzo di Amadore prosegue con un po' di esempi e di racconti sotto questo aspetto. Cosa ancora farà e fa un po' discutere l'arrivo delle 20 pagine scritte dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che chiudono un po' il dibattito, scrive Matteo Mazzuzzi sul Foglio, sul tema dell'eutanasia. Non c'è più spazio per le interpretazioni, per i distinguo, per le valutazioni caso per caso, per i vescovi e i teologi che discettano in libri, interviste e prediche di come si può accompagnare un malato terminale in modo così ambiguo che non si comprende più ciò che divide tale accompagnamento dall'eutanasia. Eutanasia, che è un atto intrinsecamente malvagio in qualsiasi occasione o circostanza, scrive la Congregazione per la Dottrina della Fede, mettendo fine a un dibattito che in parte c'è anche all'interno del mondo cattolico e sul quale si scaglia duramente Filippo Facci dalle pagine di Libero, parlando di 99 di 105.000 battute, comprese 99 note modernissime che comprendono il Concilio di Trento del 1545. È molto duro Filippo Facci, che dice c'è questo, traduzione nostra: il Vaticano finge di ignorare che certe cure palliative in pratica sono già un'eutanasia, mentre lo Stato italiano finge di ignorare che l'obiezione di coscienza di cui parla il Vaticano dovrebbe esserlo un crimine, perché significa che i medici cattolici impallinati rifiutano la legge italiana qualora, a loro dire, legittimi sotto qualsiasi forma di assistenza medica l'eutanasia o il suicidio assistito. C'è una cosa da fare, testuale: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. In Iran, forse, commenta Facci, è dove sia un Dio a pagargli lo stipendio. GR24, ci ritroviamo tra poco con il consueto appuntamento con Paolo Mieli e poi il neopresidente ed ex presidente, presidente uscente pugliese, Michele Emiliano, tra poco. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.